Masco per l'appello dei genitori di Yara. Scusateci, noi non siamo molto abituati a queste cose, siamo molto a disagio. Esordisce così davanti ai giornalisti Fulvio Gambirasio. Insieme alla moglie Maura, oggi per la prima volta ha deciso di rompere la cortina di riservatezza mantenuta dal giorno della scomparsa di Yara, il 26 novembre scorso. Siamo convinti che nostra figlia sia viva, aggiunto subito dopo. Per questo lanciamo il nostro appello, per non lasciare nulla di intentato. Noi non ci assilliamo per capire. Noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno. Noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nelle braccia dei suoi cari. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Non abbiamo mai fatto o voluto il male di nessuno e non meritiamo di proseguire la nostra vita senza il sorriso di Yara. Dietro l'appello dei genitori, forse un messaggio ai presunti sequestratori, forse un piano degli inquirenti per i quali la pista del rapimento si sta facendo via via più plausibile. Nessun dettaglio però su quale possa essere il movente o il quadro entro cui sarebbe maturato il sequestro. Una cosa è certa, le ricerche di Yara proseguono. Grazie ai volontari, alle forze dell'ordine, a tutta la gente che sta prosciugando il proprio tempo libero proprio per una cosa in cui credono e di cui siamo onorati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora in Calabria per gli arresti per l'omicidio ieri di padre e quattro figli in una masseria. Ero stanco dei soprusi continui che subivo dai Fontana. Mio padre è stato anche schiaffeggiato da loro. Alla fine non ce l'ho fatta più. Si è giustificato così Ercole Vangeli, l'uomo di 42 anni, che ha confessato di essere l'autore della strage della masseria di Filandari. Interrogato al pubblico ministero, l'uomo ha parlato di una serie di episodi che si sono susseguiti nel tempo e che lo avrebbero portato all'esasperazione. Oltre ad Ercole Vangeli, reo confesso, tra i fermati c'è suo fratello Franco, un figlio di quest'ultimo, Piero e il genero Gianni Mazzitelli. I quattro sono accusati tutti di omicidio plurimo. Vangeli, nel corso dell'interrogatorio reso nel corso della notte al pubblico ministero di Vibo Valentia Michele Sir Giovanni, ha parlato in particolare di invasione di terreno, di tagli di alberi sulla sua proprietà e di un atteggiamento di sfida nei suoi confronti da parte dei Fontana ogni volta che si incontravano in paese. Filippo Veltri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vibo Valentia. A Roma l'incontro fra Fiat e sindacati sul contratto di lavoro relativo alla Nuco dello stabilimento di Pomigliano. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Sul tavolo di aziende e sindacati il contratto per l'assunzione dei lavoratori dell'impianto campano, circa 4.600 al momento, in funzione della nuova società costituita dalla Fiat a Pomigliano sulla base dell'accordo siglato a giugno, lo ricordiamo, senza la FIOM. Le parti puntano a chiudere in un paio di giorni, quindi già domani. L'intesa farà sicuramente da modello del mondo contrattuale metalmeccanico e potrebbe rappresentare un precedente anche per la Nuco, che sarà costituita a Mirafiori sulla base dell'intesa siglata il 23 dicembre, sempre senza la FIOM. Intesa quest'ultima che alimenta intanto ancora decise polemiche tra le parti sociali, le critiche del segretario della CGIL Camusso, l'amministratore delegato della Fiat Marchionne. Il ministro del welfare Sacconi torna invece a spiegare che l'accordo raggiunto per Mirafiori dimostra che i salari anche in Italia possono crescere, mentre il diritto di sciopero resta intatto. Dalla CISL il segretario Bonanni puntualizza: servono nuove regole per la rappresentanza sindacale, a patto che il pluralismo, fondamento della nostra tradizione sindacale, non si trasformi in una Babele. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. A Porto Marghera, vicino a Venezia, l'incontro del ministro per lo sviluppo economico Paolo Romani con i dipendenti del gruppo Vinils, in particolare quelli che hanno protestato sulla torre dello stabilimento. Romani ha assicurato il 22 dicembre, lo ricorderete, gli stipendi e le tredicesime, anche la conclusione dell'accordo con il fondo svizzero Gita per l'acquisizione e il salvataggio dell'azienda. Con il blocco degli stipendi pubblici fino al 2013 deciso dalla manovra economica, i lavoratori del pubblico impiego perderanno complessivamente circa 1.600 euro di potere d'acquisto. La stima arriva dalla CGIL. Sono sbarcati in 200 a Civitavecchia stamattina per andare a Roma, ma le forze dell'ordine hanno bloccato nel porto i rappresentanti del movimento Pastori Sardi. Michele Albini ha sentito uno di loro, il leader Felice Floris. Siamo di fatto sotto sequestro, sono sequestrati i nostri pullman, si è impedito di fare i biglietti alla stazione, cioè si è impedito di andare a Roma. Cioè, noi siamo venuti qua a Roma per fare una conferenza stampa, invece ci troviamo qua trattati come dei criminali, ancora peggio, siamo scortati a vista come se fossimo dei delinquenti. Questo, la politica deve pigliare atto di questo. perché qua ci sono persone serie, ci sono produttori che stanno rivendicando il loro diritto a esistere. Quale sarebbe stato l'obiettivo originario della manifestazione? Organizzare una conferenza stampa a Roma, allargare diciamo così il bacino delle nostre problematiche, anche perché siamo in procinto di creare un coordinamento di tutti i pastori del Mediterraneo, per cui ci serviva Roma per lanciare questa idea. Andiamo all'estero. Una sete islamista ha rivendicato sul web gli attentati che hanno provocato oltre 80 morti la vigilia di Natale in Nigeria. Intanto uno dei simboli della cristianità sta perdendo proprio i cristiani. Luogo simbolo del Natale e ogni anno il 25 dicembre per le sue strade si riversano centinaia di pellegrini, soprattutto cristiani dall'Europa e dal Sud America. Ma Betlemme, la città che ospita la basilica costruita sulla grotta di Gesù Bambino, si sta islamizzando sempre più. I cristiani oggi sono appena l'1,9% della Palestina storica e sono meno di un terzo della popolazione di Betlemme. Ai nostri microfoni padre Pier Battista Pizzaballa, custode di Terra Santa. Nel 67 Betlemme era una cittadina a maggioranza assoluta cristiana, oltre il 60%, quasi il 70% degli abitanti di Betlemme era cristiano. Oggi i cristiani sono meno del 10%. I motivi sono tanti, innanzitutto bisogna dire che i cristiani fanno meno figli, mentre invece la comunità musulmana ha famiglie molto più numerose. C'è anche l'immigrazione musulmana, soprattutto dai territori, dovuta alla mancanza di prospettive economiche e alla situazione politica. Gli arabi cristiani sono sempre meno. Io non credo che la presenza cristiana scomparirà del tutto. Il rischio è quello di rimanere una presenza semplicemente simbolica. Cristina Balotelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 5 arresti all'aeroporto di Genova, Cristoforo Colombo, in manette gli addetti allo smistamento dei bagagli, ripresi a tastare, aprire valigie per rubarne il contenuto. Sono accusati di furto aggravato e continuato in concorso. Una bambina di 2 anni è morta questa mattina sul treno che la stava conducendo con la mamma a Torino. Il convoglio si è fermato alla stazione di Alessandria per consentire soccorsi, ma purtroppo senza successo. Finisce in procura l'emergenza buche a Milano. Sulle strade di Sestate il Codacons depositerà 2 esposti in tribunale alla Corte dei Conti. Ogni giorno si registrano decine di cadute di pedoni e automobilisti e blocchi alla circolazione di tram e auto. Danni che la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha quantificato. Sentiamo il segretario generale Renato Mattioni al microfono di Maria Luisa Pezzali. Noi abbiamo fatto una stima relativa al territorio più ampio che è Milano o Monza, quindi le 2 dimensioni provinciali. Noi abbiamo stimato, sentendo i rappresentanti del mondo delle imprese, un costo economico, soprattutto per quello che riguarda i ritardi, di quasi 5 milioni e mezzo di euro al giorno. A questi vanno aggiunti circa 750 mila euro al giorno di costi, diciamo, del motociclista, in base almeno alle dichiarazioni dei meccanici e dei carrozzieri. Ma il Comune di Milano minimizza e ricorda di aver stanziato 26 milioni di euro nel capitolo di spesa su buche e riasfaltatura. L'assessore ai lavori pubblici Bruno Simini. Le buche a Milano sono le stesse buche che si trovano in tutti i posti del mondo dove con insistenza piove per diversi giorni in modo consecutivo. Dopodiché è evidente che Milano, calcata da 800.000 veicoli al giorno, soffre il passaggio di mezzi anche pesanti e non a caso abbiamo impostato ormai da più di un anno un programma di intervento per rimettere a posto le strade. Contiamo in 4 anni di raggiungere tutte le strade della città. Stupisce che poi parte dei fondi stanziati nel 2009 4 milioni di euro vengano spesi per risarcire i danneggiati. Francamente non lo so, non seguo gli aspetti assicurativi. Quello che conta però è fare i lavori, migliorare le strade e quindi cercare di riportare la rete stradale a un ammodernamento che è assolutamente indispensabile. Emergenza rifiuti a Napoli, continua il rimpallo delle responsabilità. La regione attacca il comune, la SIA, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, è incapace di sfruttare i finanziamenti che pur tra mille difficoltà la regione ha assicurato, dice l'assessore all'ambiente Giovanni Romano. La risposta dell'amministratore delegato di ASIA, Daniele Fortini, al microfono di Laura Bettini. Questi attacchi della regione sono francamente incomprensibili perché noi abbiamo sempre collaborato con la regione, sia con la vecchia amministrazione che con la nuova. Certo, gli sforzi a Napoli sono difficili da farsi per una serie di ragioni tecniche, oltre che sociali, urbanistiche, i progressi della raccolta differenziata sono sempre stentati. Tuttavia Napoli ha il 19% di raccolta differenziata, quando in tutto l'Interland, dove risiedono 2 milioni di abitanti, è al 5%. Il problema vero è che la Regione non è vero che ha dato soldi. Noi non abbiamo avuto neanche un centesimo negli ultimi 4 anni dalla Regione Campania. Non basta fare una delibera dicendo darò 2 milioni di euro al Comune di Napoli per dire che li ha dati. Non sono mai arrivati. Ma Napoli naturalmente non è solo rifiuti. Ben oltre i rifiuti in strada, le polemiche e gli scontri tra partiti e fazioni, a dispetto di una crisi profonda di fiducia, c'è una Napoli che resta ancora e sempre capitale. Per scoprirla, fino al 5 gennaio basta raggiungere il 500° Palazzo Ricca, sede dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione, e dare un'occhiata al percorso multimediale voluto dalla Fondazione Plart per aprire al pubblico l'archivio storico bancario più importante del mondo. I più interessanti tra i 300 milioni di atti raccontano 450 anni di storia di quella che è stata la seconda o terza città più importante d'Europa, a seconda dei periodi. Il direttore dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione, Aldo Pace. Noi raccogliamo, custodiamo e gestiamo tutta la documentazione bancaria a partire dagli 8 banchi pubblici napoletani. Transazioni d'affitto, pagamenti ad artisti, riscatti di schiavi e addirittura spese per il risarcimento di stupri e pene per i contrabbandieri. Dentro tracce di storia alta e bassa, vicende esemplari, ma anche chiavi preziose per capire il passato, come spiega il direttore dell'archivio Edoardo Nappi. Studiare le varie crisi monetarie, no? Insomma, del 1622, del 1688 e così via, oppure studiare la peste del 1657. E poi ancora la scoperta di un boom edilizio nella Napoli di Carlo di Borbone, o che il primo nucleo della Guardia di Finanza era napoletano, e infine un ultimo stupefacente primato. Nel 1820-1840 a Napoli ce ne sono decine e decine, no? Al nord non c'era niente, insomma. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani alle 12.30 la presentazione ufficiale di Leonardo, nuovo allenatore dell'Inter, al centro sportivo di Appiano Gentile. Alle 15 allenamenti della squadra a porte aperte con il nuovo arrivato, il difensore Andrea Ranocchia. Leonardo, allenatore dell'Inter, ha senso parlare di tradimenti sportivi? E quanto vi avevamo chiesto nel sondaggio di oggi? Il 19% di voi ha risposto sì, l'81% invece ha risposto di no. E sentiamo su questo Evaristo Beccalossi, ex giocatore di calcio dell'Inter e ora commentatore televisivo, questa mattina è intervenuto a Bianconero. Credo che Leonardo sì, ha una storia col Milan, però è stato anche un giramondo e è un personaggio che col calcio di oggi, insomma, lo puoi collocare in qualsiasi situazione, anche se ha avuto delle esperienze forti col Milan. Io mi aspetto che faccia grandi cose, non ho nessun tipo di prevenzione, anzi sarebbe forse un problema di sentimento, di tradimenti su certi giocatori che hanno fatto proprio la storia delle proprie squadre, del Piero Totti e Maldini, insomma. Questi sono nati con le loro maglie e se le portano dietro per tutta la vita. Mentre adesso stiamo parlando di un allenatore, sì, che ha un passato nel Milan, però mi risulta che ha giocato nel Paris Saint-Germain, brasiliano, in Giappone, è stato... Cioè, dov'è il problema? E chiudiamo con un po' di buona musica. Elton John, infatti, è diventato papà. It's a little bit funny, this feeling inside. È nato il giorno di Natale in California Zachary Jackson Levon Furnish John, il primo figlio del 62enne Elton John e del suo compagno, il regista 48enne David Furnish. Zachary è nato grazie ad un utero in affitto e a dare la notizia è stato il giornale americano US Weekly. Siamo sopraffatti dalla felicità e dalla gioia in questo momento davvero speciale, ha dichiarato Elton John. Una paternità molto attesa per la coppia gay, una delle prime a sposarsi in Gran Bretagna nel 2005, appena venne approvata la legge che consentiva i matrimoni omosessuali. Il piccolo Zachary pesa 3,2 kg ed è alto 55 cm. Sta bene e noi siamo genitori davvero orgogliosi e felici, ha detto Elton John. Già l'anno scorso il grande cantante e compositore inglese e il suo compagno avevano cercato di adottare un orfano che aveva contratto l'HIV, ma a causa dei regolamenti governativi la loro richiesta era stata respinta. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.